innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. Molto carine. Grazie. Però adesso parliamo anche in coro col generale. Allora, come le gemelline siamesi. Comincia tu, se no qua non finiamo più. Alice, che cosa avevamo detto? Io ero Alice. Ok, Alice, dove andiamo? Puoi rifare oggi la performance. Di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Però a quanto pare nella TAC si è evidenziato che io qua in testa c'ho tipo una noce grande così, piccola piccola, colore nocciola, che lui clinicamente l'ha chiamata cervello, può essere? Non è che sono dottore, non lo so. Che dice che addirittura che è una cosa che io ho da quando ero piccolo, da quando la nasce. E tu non l'hai mai saputo? Ma se non mi ha dato mai fastidio, come me ne accorgevo? Insomma, la quantità fa la qualità, almeno per il cervello. Il suo volume, infatti, è una garanzia, un'arma preziosa per contrastare le malattie che possono compromettere il suo funzionamento, le malattie neurodegenerative. Siamo quindi attrezzati per farvi fronte, questo ci rasserena, ma ci vuole un po' di impegno. Occorre nutrire e allenare il cervello per mantenerlo sano. Chi nel corso della vita costruisce una maggiore riserva cognitiva attraverso, ad esempio, maggiore attività, studio, sport, riduce il rischio di contrarre la malattia o ne ritarda l'insorgenza e nel caso di malattia mostra un adattamento maggiore che limita i danni della patologia. Ne parleremo nella prima parte di Cuore Denari. Datevi subito da fare, chiamate il nostro numero verde 800 24 00 24. E costruiamo una riserva cognitiva, mi è piaciuto molto questo concetto, magari guardando anche ai numeri e ai temi che ci offrono ogni giorno i mercati finanziari. Noi, come sapete, lo facciamo ogni giovedì quando apriamo lo spazio della nostra rubrica Investire Informati. Commentiamo anche questo giovedì, a partire dalla seconda parte di Cuore Denari, le notizie della settimana alla luce della reazione dei mercati finanziari e naturalmente delle opportunità di investimento. Oggi parleremo di Grecia e Turchia e di molto altro ancora. Se avete domande e curiosità su questi argomenti, il numero è sempre lo stesso, è l'800 24 00 24. A tra poco. Vivere più a lungo e ci hanno accontentati, la vita media si è allungata con un bonus per noi donne che viviamo in media, Deborah, 6-7 anni più degli uomini. È vero, e per questo dobbiamo sempre rimettere mano alle pensioni. Fantastico, ma volevamo anche vivere bene, goderci quegli anni in più. Insomma, il nostro obiettivo non era solo quello di aggiungere anni alla vita, ma anche vita a quegli anni, o no? Per apprezzarli, goderli, ricordarli. Sembra un po' la storia della bicicletta. Chi l'ha voluta, o in questo caso a chi per una serie di coincidenze di geni, fortuna, stili di vita è stata data a tocca pedalare, cioè aggiungere qualità. Questo succede per tutte le parti del nostro corpo e anche soprattutto per il cervello, organo prezioso di cui ci occupiamo oggi insieme a un grande neurologo che è unico e primo in Italia. È stato insignito, pensate, di un importantissimo riconoscimento, il premio Charcot Award 2015, che è una sorta di Oscar che la Federazione Internazionale Sclerosi Multipla assegna a medici e ricercatori che si distinguono per il contributo allo sviluppo delle conoscenze sulla fisiologia e anche il trattamento della malattia neurodegenerativa. Quindi saluto con i complimentoni di Cuore Denari il professor Giancarlo Comi, professore di neurologia all'Università Vita Salute del San Raffaele e direttore del Dipartimento Neurologico all'Istituto Scientifico, sempre all'Università San Raffaele di Milano. Buongiorno professore e bentornato. Buongiorno Nicoletta e buongiorno agli ascoltatori. E complimenti da Cuore Denari. Certo, d'obbligo. Professor Comi, la nostra società invecchia, il rischio di ammalarsi di malattie neurodegenerative aumenta e noi naturalmente non siamo in grado né di predire la nostra salute né di averne il pieno controllo, ma qualcosa possiamo, anzi dobbiamo fare. Homo faber, fortune sue. Sappiamo che il benessere psicofisico riduce il rischio di demenza e quindi dobbiamo fare in modo che il nostro cervello resti sano il più possibile. Professor Comi, ne parleremo nel corso della trasmissione, perché ci sono delle novità interessanti. La scienza infatti dispone di risultati incoraggianti che mostrano la possibilità di mantenere il nostro cervello in forma e in buona salute. Questo per quanto riguarda la prevenzione. Ma le novità non finiscono qua, perché oggi, professore, sempre più si parla di medicina personalizzata. Per un neurologo questo che cosa significa? Beh, innanzitutto è un concetto veramente generale che vede il neurologo particolarmente interessato, perché la medicina personalizzata è di grande valore soprattutto quando occorre confrontarsi con malattie cosiddette complesse, no? Che sono il risultato di molteplici fattori sia genetici che ambientali, una specie di purpurì che si combina in modo unico in ogni persona. Credo che tutti noi abbiamo nella nostra stessa esperienza, no? La chiara evidenza che mentre magari un nostro amico che ha avuto un'infezione banale, un mal di gola, ha risposto subito a un certo antibiotico, lo stesso antibiotico non ha fatto assolutamente nulla. Ora è chiaro che occorre identificare quali sono i fattori che determinano la risposta individuale della persona alle terapie. E tutto ciò oggi diventa possibile perché da un lato abbiamo delle macchine, dei sequenziatori che ci consentono di studiare in modo molto più dettagliato il nostro genoma nelle sue varie componenti, e dall'altra abbiamo anche qualche informazione in più sui fattori ambientali, quindi riusciamo a capire come il diverso menu che si realizza in ogni persona ha alla base determinati elementi fondamentali per scegliere poi la terapia più opportuna. Professore, quindi invitiamo i nostri ascoltatori all'800 24 00 24, naturalmente ascolteremo le loro domande, i loro dubbi. Vi invito a chiamare se avete ricevuto una diagnosi, se avete in famiglia una persona affetta da una malattia neurodegenerativa. Professor Comi, le ricerche dimostrano che il volume del cervello conta, è una sorta di garanzia, no? Che nell'arco della vita protegge almeno in parte dalle conseguenze provocate nei processi neurodegenerativi, ma non solo. La dimensione del volume cerebrale in caso di malattia riduce le conseguenze dei danni determinanti. Ci vuole spiegare questo concetto? Sì, innanzitutto voglio, come dire, spazzare via un fraintendimento facile. Non è tanto il volume in assoluto, ma è il volume del cervello in quella scatola cranica, no? Sappiamo tutti che c'è chi ha il testo un po' più piccolo, chi ce l'ha un po' più grossa, quindi si tratta di capire come quella dimensione nell'ambito che la natura ci ha assegnato e la genetica ci ha assegnato poi è stata mantenuta nell'ambito dell'evoluzione della vita. E una delle grandi scoperte nuove che abbiamo fatto negli ultimi 20 anni è la enorme plasticità del cervello, il quale veramente ha dei bernoccoli, sì, che in qualche modo contrassegnano la genialità di una persona in un certo settore o in un altro. E sono bernoccoli che si formano anche, cioè se noi attiviamo determinate funzioni specifiche, noi abbiamo un ampliamento di quella zona di cervello. Ci sono una serie di studi enormi in corso in questo momento che fanno vedere proprio sotto i nostri occhi, direi quasi di giorno in giorno, come il cervello in qualche modo vada incontro a questi piccoli adattamenti che riflettono ovviamente nuovi modi di connettersi delle cellule nervose dentro la nostra testa e quindi di realizzare le meravigliose funzioni, no, che il nostro cervello è in grado di poter determinare. Ora, tutto questo ovviamente è un patrimonio come tutti i patrimoni che va conservato e se possibile va anche fatto fruttare, no? È un gruzzolo, no? Quindi mi sembra giusto mettere in evidenza questo legame, certamente così. E ovviamente noi abbiamo individuato alcuni dei fattori che costituiscono un elemento di buon investimento per quanto concerne la nostra salute cerebrale. Abbiamo in linea con noi Massimo da Roma, il nostro primo ascoltatore, che salutiamo e che invitiamo qua con noi. Massimo, buongiorno. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno a lei Massimo, io sono Nicoletta, guardi anche buongiorno, Nico, Nicoletta, va bene, buongiorno. Grazie. Buongiorno, va bene. Ci senta, dica Massimo. Nicoletta, volevo porre una domanda al professor Cuomi. Sì, quanto l'alcol, Comi, mi scusi, sì, quanto l'alcol influisce sull'invecchiamento del cervello? Grazie, bella domanda Massimo, la ringraziamo. Professor Comi. Beh, quanto l'alcol interagisca col cervello, ancora una volta ce ne rendiamo conto tutti, no? Cioè, basta che noi beviamo anche una modesta quantità di vino di superalcolici che ci rendiamo che cambia un po' il nostro umore, si modifica un po' il nostro equilibrio, la nostra capacità di concatenare gli elementi, insomma. L'alcol ovviamente se se ne fa un abuso e se, soprattutto se se ne fa un abuso cronico, è uno dei fattori che distrugge progressivamente il tessuto nervoso, di solito si associa a problemi poi anche di assorbimento di sostanze da parte del nostro intestino, perché distrugge l'assorbimento ad esempio della vitamina B12, giusto per segnalare la cosa più comune, e quindi le nostre cellule vengono in qualche modo intossicate, dall'altra parte anche indebolite. I due fattori sono poi chiaramente devastanti quando si legano tra di loro. Professore, ma anche il fumo di sigaretta e l'obesità sembrano avere un ruolo importante o sbaglio? Ma il fumo di sigaretta sta emergendo a più livelli, era già stranota l'influenza del fumo di sigaretta per quanto concerne gli aspetti vascolari, e non dimentichiamo che il nostro cervello è uno degli organi che è molto risente delle malattie cosiddette vascolari, perché ovviamente il suo nutrimento arriva dal sangue. Se noi abbiamo un'alterazione dei fattori che regolano la circolazione del sangue, il fumo ha un forte impatto sui processi aterosclerotici, ovviamente il cervello verrà nutrito meno bene, quindi funzionerà male. Ma più recentemente si è visto che ad esempio il fumo influenza negativamente anche il rischio di alcune malattie neurodegenerative come la sclerosi multipla. I fumatori hanno più probabilità di andare incontro alla malattia di chi non fuma, ad esempio. Quindi ancora una volta, ripeto, emergono degli elementi ambientali molto importanti per comprendere la complessità di queste malattie. L'obesità, sì, ovviamente anche questo è un altro fattore, e anche qui credo che l'obesità agisca in modo veramente molteplice, innanzitutto perché può essere uno degli elementi della cosiddetta sindrome metabolica, no? In cui è proprio un po' il motorino delle cellule che non funziona più alla perfezione, ma poi qui si aggiunge anche un problema: obesità vuol dire anche diminuzione della capacità di movimento, no? Vita molto più sedentaria, e chiaramente il movimento, e questo è quasi una magia, ma il movimento è uno dei fattori determinanti per la qualità anche del nostro pensiero. Chi l'avrebbe mai detto? Ma insomma è così. È così. E quindi occorre anche muoversi. Per pensare, per proteggere il cervello. Professor Comi, quindi stile di vita, ma ci sono anche altri fattori, ereditarietà, ambiente, geni. Che cosa sapete di nuovo sul peso di questi fattori? O ne avete forse individuato altri capaci o sospettati di indurre o accelerare il processo degenerativo del cervello? Ma questo è veramente un ambito di ricerca che ha dato frutti veramente notevolissimi e ne darà ancora di maggiore in futuro, perché come vi dicevo, arriviamo in queste malattie neurodegenerative all'aspetto finale, cioè al rivelarsi della malattia, al suo manifestarsi, attraverso una combinazione di stadi diverse, per cui noi stiamo cercando di sciogliere questa matassa e capire i vari fili che possono annodandosi portare a questa condizione. Quindi lo studio dei fattori genetici sta diventando fondamentale, e abbiamo ad esempio capito che l'Alzheimer può venire attraverso diverse alterazioni genetiche, ognuna delle quali da sola, quando è di un certo tipo e critica, può essere sufficiente a farci venire la malattia. Ma il dato ancora più interessante è che in molte altre persone, nella stragrande maggioranza di queste persone colpite da malattie neurodegenerative, non è un singolo fattore in gioco, ma è un insieme di fattori in gioco, alcuni di maggior rilievo, altri di minor rilievo, e tutto questo porterà sicuramente a delle terapie anche differenziate. Quindi per significare una delle grandi scoperte, cioè la sclerosi multipla ad esempio è legata a più di 150 geni, alcuni agiscono in una persona, alcuni in un'altra. Più o meno quando si raggiunge una soglia critica di geni con propensione negativa, la malattia poi tende ad emergere, però con composizioni diverse, e per questo verosimilmente anche il modo di trattare questi malati dovrà essere un po' diverso. Stiamo parlando di una malattia che colpisce in prevalenza le donne, professor Comi, la sclerosi multipla e in giovane età. Sì, ovviamente tutte le malattie neurodegenerative ovviamente hanno impatti molto, molto significativi sulla qualità della vita delle persone, ma ovviamente malattie che colpiscono in età molto, molto precoce, la sclerosi multipla comincia, può colpire a partire dall'adolescenza, eccezionalmente anche prima, ma tipicamente si manifesta nella donna giovane. Il rapporto femmina maschi sta avviandosi verso il 3-1 e peraltro soprattutto in alcuni ambiti, in alcuni paesi la frequenza di questa malattia si sta incrementando in modo significativo. Ovvio che quando una malattia irrompe nella vita in una fase progettuale risulta devastante non solo perché dà delle limitazioni che molte volte in realtà possono essere anche molto modeste, ma genera anche quella preoccupazione che disarticola un po' il piano di programma che poi è il filo conduttore della nostra vita, no? Sì, noi, certo. Ovviamente basiamo molto del nostro star bene nel fatto che possiamo programmare e proiettarci in una dimensione futura. Ci sono anche messaggi al 349-238-6666 che ritornano su un aspetto di cui abbiamo parlato in apertura, cioè l'allenamento per aumentare la riserva cerebrale o cognitiva, che possiamo un po' definire come la capacità del nostro cervello di limitare e contrastare quelle modificazioni strutturali e funzionali dell'invecchiamento, sia fisiologico che patologico. Tra l'altro avevo letto un dato che mi ha stupito, professor Comi, che riguarda la relazione tra scolarità e rischio di sviluppare demenza. Individui con meno di 8 anni di formazione scolastica presentavano un rischio raddoppiato di sviluppare forme di demenza rispetto alle persone con un percorso formativo più lungo. Ma professor Comi, questo non significa che chi ha la licenza media sia più a rischio di chi ha una laurea, precisiamolo subito. No, direi che allora il concetto è direi relativamente semplice, cioè noi nel corso della nostra vita creiamo continuamente delle connessioni tra le nostre cellule cerebrali e la meraviglia di ciò che noi riusciamo a fare con la nostra mente è frutto della complessità di queste connessioni. Ora, se noi facciamo attività mentali, attività fisiche, ma anche attività di puro stimolo e piacere intellettuale, andiamo a teatro, andiamo al cinema, andiamo e usciamo a cena con gli amici e discutiamo di ciò che ci succede, tutto ciò che stimola il nostro cervello corrisponde alla creazione di nuovi contatti, di nuovi punti di collegamento tra una parte e l'altra del nostro cervello. Mano a mano che la fase di involuzione del cervello inizia, le persone che partono con una grande dotazione di collegamenti ovviamente si troveranno nelle condizioni di far fronte in modo decisamente migliore alla perdita di collegamenti. E ovviamente l'effetto scolarità, che indubbiamente c'è, non è legato alla scolarità in sé, in senso lato, ma perché è molto facile misurare l'impatto dell'usare il cervello usando una misura così banale ma chiaramente identificabile come il numero di anni di studio. In realtà questo è uno dei fattori, è uno dei metodi per misurare, ma quello che conta è in qualche modo l'averlo usato il cervello. Anche un analfabeta può avere un'attività intellettuale estremamente ricca, cioè è ovvio che però tutto partecipa, cioè crearsi una cultura vuol dire per forza, no? Sviluppare un'analisi molto più attenta di ciò che ci circonda e di ciò che è dentro di noi, quindi tutto questo coopera a sviluppare. Pensi che si è visto che andando a fare gli studi autoptici, quelli giganteschi fatti soprattutto dalla scuola tedesca e nordica, si è visto che alcuni pazienti che erano deceduti in età anche avanzata senza avere nessuna evidenza di demenza avevano dentro il cervello tutti i segni della demenza, ma se ne erano difesi molto bene, così bene che la malattia non era riuscita neanche a raggiungere il livello di emersione alla apparenza esterna. Quindi questo, in quel caso il loro cervello è stato un osso duro, insomma, non si è lasciato mettere sotto scacco. Questo. Questo noi lo vediamo veramente ogni giorno, quando vediamo i malati in questa fase, la modalità con cui il paziente ha vissuto in qualche modo difende, no? Lotta, certo, combatte contro il tentativo di destrutturare questo organo così prezioso. Allora, per a tutto vantaggio del nostro cervello, certo, adesso andiamo a sentire i mercati, i ci mercati, alleniamo una bella palestra. Intanto, a proposito di palestra, però, magari il messaggio di Gianluca possiamo anche, sì, lo anticipiamo al professor Comi? Vai. Magari così ci riflette un po', no? Perché voleva sapere, Gianluca, se esiste un rapporto fra sclerosi multipla e sport, e quali sono i limiti eventualmente, non so, dello sport su chi ha una problematica di questo tipo, o se invece è necessario un pochino attivarsi. 800 24 00 24, subito dopo i mercati daremo spazio alle vostre domande, quindi se volete essere aggiornati sulle novità, se avete un familiare che ha ricevuto diagnosi, se volete raccontarci cosa fate per far sì che il vostro cervello sia resistente, forte, per respingere gli attacchi, tra virgolette, di eventuali malattie, chiamateci, il professor Comi, abbiamo il piacere di averlo con noi fino alle 11.45, immagino sarà lieto di rispondere alle vostre domande e di darci tutte le indicazioni per mantenerci un cervello giovane, sano e attivo. Mercato. Cuore e denari. Potevamo non ripescare il nostro bel Sirtaki, Nicoletta, figuriamoci, l'avevamo trascurato anche fin troppo. Ormai conviene imparare a ballarlo. Esattamente, dal Sirtaki siamo momentaneamente passate a qualche danza spagnola con Bailando dopo le elezioni e la vittoria di Podemos appunto in Spagna, ma invece, come sapete, in questi ultimi giorni l'attenzione degli investitori si è riportata con molta forza sulla Grecia, sui negoziati con i creditori internazionali in vista della scadenza del 30 giugno, quando il signor Tsipras con il signor Varoufakis devono ridare un bel po' di soldi al Fondo Monetario Internazionale. Poi in questi giorni abbiamo avuto l'esito delle elezioni in Turchia con il partito di Erdogan che ha perso la maggioranza assoluta dei seggi, circostanza che ha impattato molto duramente sul mercato azionario turco, sulla lira turca, sul mercato obbligazionario turco e a cascata su tutti gli altri mercati internazionali. Oggi la situazione appare un pelino più tranquilla. Noi intanto che cosa facciamo? Come ogni giovedì riprendiamo in mano nello spazio di investire informati queste ed altre notizie per aiutarvi a capire le dinamiche dei mercati finanziari e soprattutto per cercare di capire come affrontarle quando puntiamo sui mercati internazionali il nostro denaro e il nostro risparmio. 800 24 00 24, cominciate a prenotare i vostri interventi per porci le vostre domande, le vostre curiosità, a cui risponderemo a partire dalle 11.45. Parlare di prevenzione, abbiamo in linea con noi il piacere di avere il professor Giancarlo Comi, professore di neurologia all'Università Vita Salute del San Raffaele. Insieme al professor Comi stiamo stressando un concetto che viene anche ripreso dalla ricerca, che è quella cioè che potenziando, attivando il nostro cervello, investendo in quel gruzzoletto che è la riserva cognitiva, siamo a cuore denari tra l'altro. Certo. Il nostro cervello diventa un po' un osso duro, abbiamo detto così, nei confronti dell'attacco dei nemici, delle malattie neurodegenerative, ma questa è anche un'occasione quindi per chiedere al professor Comi come fare a proteggere il nostro cervello. Stanno arrivando già numerose domande, ma chiamateci come ha fatto anche Gianluca che ci ha scritto per avere delle indicazioni, dei suggerimenti. Se avete una persona affetta da una malattia neurodegenerativa che ha ricevuto una diagnosi, che state accompagnando. Professor Comi, ci siamo lasciati prima dei mercati con la domanda di Gianluca che voleva sapere il rapporto tra sclerosi multipla e sport. Adesso ci ha specificato la sua domanda sempre scrivendoci un messaggio e chiede che, dato che la sua fidanzata ha la sclerosi multipla, lui non sa mai quanto insistere su farle fare attività fisica, il suo dottore dice che non deve stancarsi, anche sul sito dell'AISM dicono che fare sport non comporta rischi, ma puntini di sospensione. Professor Comi, a lei. Beh, innanzitutto fare attività sportiva è assolutamente positivo, perché chiaramente, come sempre, quando noi dobbiamo prepararci a delle battaglie come quelle contro una malattia, dobbiamo essere in una buona condizione fisica, poi per tutti i motivi che abbiamo appena elencato, per proteggere bene il nostro cervello e anche le nostre funzioni motorie. Ovviamente questo deve essere connotato e deve essere in qualche modo correlato al livello di possibilità di prestazione che ha la persona. Certo. Quindi è chiaro che se ci sono delle difficoltà importanti, l'impegno fisico deve essere spezzettato durante la giornata, in modo da avere un carico totale di lavoro ancora ben preservato, ma non mai portare la persona alla sensazione di fatica eccessiva. Professore, prima di lasciare spazio ai nostri ascoltatori, vedo molte domande riguardano la prevenzione, le attività da preferire per proteggere il cervello e magari quelle da limitare. Ci aggiorna un po' sulle novità, perché abbiamo visto, ad esempio, negli ultimi anni abbiamo assistito a dei passi avanti straordinari, no? Anche delle cose che si pensavano, no, si credevano in un modo, abbiamo visto che sono state in qualche modo ribaltate dalla scienza. Ad esempio, che le cellule nervose si pensava non potessero essere sostituite, ma i ricercatori non si sono arresi e oggi si intravede ad esempio la possibilità di sviluppare terapie efficaci contro queste patologie invalidanti. È così? Sicuramente è diverso, questo è diverso il livello, diciamo, di risultati raggiunti nelle diverse malattie neurodegenerative. Nella sclerosi multipla i risultati sono veramente, devo dire, estremamente positivi. Oggi, se noi trattiamo il malato in modo adeguato, riusciamo ad avere il controllo della malattia in circa i 2/3 dei casi. Quindi è veramente cambiata completamente una rivoluzione. La storia, è una vera rivoluzione. Quindi questo lo dico anche per tutti i nostri pazienti, per quelli che ci stanno a sentire in questo momento, pensate in modo positivo, perché da questo punto di vista abbiamo veramente dei grandi vantaggi. Ovviamente non in tutti i pazienti con forme crescenti progressive sono quelli che hanno il maggiore gap dal punto di vista del trattamento in questo momento. Invece per quanto riguarda le altre malattie neurodegenerative, sì, lì siamo ancora un po' lontani da riuscire a colpire la malattia al cuore. Speravamo di esserci arrivati, ad esempio, nella malattia di Alzheimer, agendo sull'amiloide, rimuovendo l'amiloide che va a depositarsi, ma abbiamo capito che questo nostro intervento, così efficace quando lo facevamo nei nostri modelli sperimentali in laboratorio, quando fatto nell'uomo non ha funzionato così, assolutamente coronato da successo allo stesso livello, ma certamente perché un elemento chiave è intervenire nella fase in cui la malattia addirittura non è ancora emersa, cioè veramente prevenire quella fase. E oggi siamo proprio alla ricerca di quegli insiemi di fattori genetici in particolare che ci possono aiutare a predire chi avrà un alto rischio di andare incontro a questa condizione, quindi a poter mettere in atto strategie terapeutiche. Alcune nuove sperimentazioni si rivolgono non più al malato conclamato, ma proprio al malato nelle sue primissime fasi di manifestazioni cliniche. Quindi, come vede, perché il tempo è molto variegato. Il tempo è una variabile assolutamente importante, no? Per poi impostare le terapie, quindi per... Si chiamano malattie neurodegenerative perché quello che succede è che degenera, quindi progressivamente muore il tessuto. Quindi è chiaro che se noi interveniamo quando c'è già una devastazione, certo, diventa un po' difficile riuscire a rimettere in funzione ciò che è stato distrutto. Mentre se noi interveniamo in una fase in cui c'è del malessere, ma la struttura è ancora strutturalmente, ancora dal punto di vista funzionale in buone condizioni, è ancora ben organizzata, ovviamente possiamo ricavarne molto di più. Una veloce domanda di un ascoltatore, quella di Ettore, magari da Roma, rapidamente, se ce la fa Ettore, vediamo se poi il professor Comi appunto riesce in altrettanto breve tempo a darci un'indicazione per il nostro amico romano. Ettore, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti e buongiorno professore. Senta, un'informazione al volo, volevo sapere se la terapia antidepressiva e ansiolitica protratta per parecchi anni può avere effetti negativi sul cervello. Grazie Ettore. Professor Comi, prima di salutarci. Sì, se non è dosaggi eccessivi La risposta è no, addirittura alcuni farmaci ad azione antidepressiva sembrano avere un qualche effetto di protezione. Rapidissimo il professor Comi. Noi andiamo a fare a sentire che cosa succede sulle strade e autostrade. Professor Comi, lei deve tornare però. Ce lo promette? Si sacrificherà per la scienza e per cuore denari. Va bene, grazie al professor Comi per essere stato con noi. Buonissima giornata. Buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. A tra poco traffico e noi tra un attimo riprendiamo con Investire Informati.